la successiva stazione del trenino, Menville, mi ricorda appunto un incidente relativo a Morel e a Charlot. Prima di parlarne, devo dire che la sosta a Menville, quando si accompagnava a Balbec qualche persona elegante appena arrivata che, per non disturbare, preferiva non abitare alla Raspellière, era occasione di scene meno penose di quella che racconterò fra un istante. Il nuovo arrivato, che aveva sul treno i propri bagagli a mano, trovava in genere il Grand Hotel un po' troppo distante, ma poiché prima di Balbec non c'erano che piccole spiagge con ville poco confortevoli, era rassegnato, per amore del lusso e della comodità, al lungo percorso quando, nel momento in cui il treno si fermava a Menville, vedeva sorgergli improvvisamente davanti il lussuoso edificio di cui non poteva sospettare che fosse una casa di tolleranza. «Ma non c'è alcun bisogno di proseguire», diceva immancabilmente a Madame Cottard, donna nota per lo spirito pratico e la saggezza dei consigli. «Ecco precisamente quello che mi ci vuole. A che scopo andare fino a Balbec dove non sarà certo meglio? Solo dall'aspetto ritengo che vi sia ogni comfort. Potrò benissimo invitarci Madame Verdurin, visto che conto, per ricambiare le sue cortesie, di dare qualche festicciola in suo onore. Dovrà fare meno strada che se abitassi a Balbec. Mi sembra del tutto conveniente per lei e per vostra moglie, caro professore. Ci saranno di sicuro dei salotti, potremmo ospitare queste signore. Detto fra noi, non capisco perché, invece di affittare la Raspellière, Madame Verdurin non si sia sistemata qui. È molto più sano delle vecchie case sul tipo della Raspellière, che è per forza di cose umida e d'altra parte non molto pulita. Non c'è acqua calda, non ci si può lavare come si desidera. Menville mi sembra decisamente più piacevole. Madame Verdurin vi avrebbe svolto alla perfezione le sue funzioni di padrona. Comunque, ciascuno ha i suoi gusti. Io mi stabilirò qui. Madame Cottard, non volete scendere con me? Un po' in fretta perché non manca molto alla partenza del treno. Potreste pilotarmi in quella casa che sarà anche la vostra e dove sarete stata chissà quante volte. È una cornice veramente degna di voi. Si sudavano sette camicie per cercare di far tacere e soprattutto per trattenere sul treno lo sventurato viaggiatore, il quale, con l'ostinazione che spesso emana dalle gaffe, insisteva, prendeva le valigie e non voleva sentir ragione finché non gli si assicurava che mai Madame Verdurin o Madame Cottard sarebbero andate a trovarlo in quel luogo. In ogni caso, io vi eleggo domicilio. Madame Verdurin non avrà che da scrivermi lì. Il ricordo relativo a Morel si riferisce a un incidente d'un carattere più particolare. Ve ne furono altri, ma mi limito qui, man mano che il tortiglione si ferma e il ferroviere grida Doncières, Gratvast, Menville, eccetera, ad annotare ciò che mi evocano quella piccola spiaggia o quella guarnigione. Ho già parlato di Menville, media villa, e dell'importanza che veniva assumendo per il sontuoso bordello che recentemente vi era stato costruito, non senza suscitare le inutili proteste delle madri di famiglia. Ma prima di dire come Menville si leghi in qualche modo nella mia memoria a Morel e Charlot, bisogna che accenni alla sproporzione, sulla quale dovrò poi soffermarmi, fra l'importanza attribuita da Morel al tenersi libere certe ore e l'irrilevanza delle occupazioni nelle quali sosteneva di impiegarle, sproporzione che si ritrova in spiegazioni d'altro genere che egli forniva a Charlot. Lui che, con il barone, recitava la parte del disinteressato e poteva farlo senza correre rischi, data la generosità del suo protettore, quando desiderava passare la serata per conto suo a dare una lezione, eccetera, non mancava ad aggiungere al pretesto queste parole, pronunciate con un sorriso d'avidità. «E poi ci posso guadagnare 40 franchi. Non è mica niente. Lasciate che ci vada, visto che, come vedete, è nel mio interesse. Diamine, non ho le vostre rendite. Devo farmi una posizione al momento di guadagnare un po' di soldi». Morel, nel suo desiderio di dare quella lezione, non era del tutto insincero. Da un lato, che il denaro non abbia colore è falso. un modo nuovo di guadagnarlo conferisce qualcosa di nuovo alle monete sbiadite dall'uso. Se fosse veramente uscito per una lezione, è possibile che due Luigi consegnatigli da un allievo al momento d'andarsene gli avrebbero fatto un effetto diverso rispetto a due Luigi caduti dalla mano del signor di Charlus. E poi anche il più ricco degli uomini, per due Luigi, può fare dei chilometri, che diventano leghe se si è figli di un cameriere. Ma Charlus aveva spesso, sulla realtà della lezione di violino, dubbi tanto più consistenti in quanto molte volte il musicista invocava pretesti d'altro genere, di carattere totalmente disinteressato dal punto di vista materiale e comunque assurdi. Morel non riusciva in tal modo a non presentare un'immagine della propria vita, ma volontariamente o anche involontariamente, così oscurata che era possibile distinguerne solo certe parti. Per un mese si mise a disposizione di Charlus a condizione di tenersi libere le serate, perché voleva seguire con continuità delle lezioni d'algebra. Andare da Charlus dopo? Ah, era impossibile. Le lezioni a volte finivano molto tardi. Anche dopo le 2 del mattino? Chiedeva il barone. A volte. Ma l'algebra si può studiare altrettanto bene in un libro. Anche meglio. Spesso alle lezioni non capisco granché. E allora? L'algebra poi non può servirti a nulla. Mi piace. Mi fa passare la nevrastenia. Non può essere l'algebra a fargli chiedere questi permessi notturni, si diceva Charlus. Che lavori per la polizia? In ogni caso, qualsiasi obiezione gli si facesse, Morel teneva per sé certe ore sul tardi, fosse a causa dell'algebra o del violino. Una volta non si trattò né dell'una né dell'altro, ma del principe di Guermantes, il quale, venuto a passare qualche giorno sulla costa per fare visita alla duchessa di Luxembourg, incontrò il musicista senza sapere chi fosse e senza esserne conosciuto e gli offrì 50 franchi per passare la notte insieme nel bordello di Menville. Doppio piacere per Morel, per via del denaro ricevuto dal signor di Guermantes e della voluttà d'essere circondato da donne i cui seni bruni si mostravano senza veli. Non so come, Charlus ebbe notizia di quel che era successo e dove, ma non del seduttore. Pazzo di gelosia e per sapere chi fosse, telegrafò a Jupien, che arrivò 2 giorni dopo, e quando all'inizio della settimana successiva Morel annunciò che si sarebbe assentato di nuovo, il barone chiese a Jupien d'assumersi l'incarico di corrompere la padrona del bordello e ottenere che li nascondesse, lui e Jupien, per assistere alla scena. «D'accordo, me ne occupo io, bel musetto», rispose Jupien al barone. Non si può immaginare fino a che punto l'inquietudine sconvolgesse e perciò stesso avesse momentaneamente arricchito la mente di Charlus. L'amore provoca a volte veri e propri sollevamenti geologici del pensiero. In quello di Charlus, pochi giorni prima simile a una pianura così uniforme che, sino all'estremo orizzonte, non si sarebbe riusciti a scorgere una sola idea sopra il livello del suolo, era spuntato improvvisamente un massiccio di montagne dure come la pietra, ma montagne scolpite, come se un artista, invece di prelevare il marmo, l'avesse lavorato sul posto e nelle quali si torcevano, in gruppi giganteschi e titanici, il furore, la gelosia, la curiosità, l'invidia, l'odio, la sofferenza, l'orgoglio, lo spavento e l'amore.